Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Daria Alexandrovna mise in atto la sua intenzione e andò da Anna. Le rincresceva molto addolorare la sorella e far cosa sgradita al marito di lei. Capiva che avevano ragione i Levin a non volere alcun rapporto con Vronsky, ma considerava suo dovere stare un po' da Anna e mostrarle che i suoi sentimenti non potevano cambiare, nonostante il mutamento della situazione di lei. Per non dipendere dai Levin in questo viaggio, Daria Alexandrovna mandò a noleggiare dei cavalli al villaggio, ma Levin, avendolo saputo, andò da lei a sgridarla. «Perché mai pensi che il tuo viaggio mi dispiaccia? Ma anche se mi dispiacesse, tanto più mi dispiace che tu non prenda i miei cavalli», disse. «Non mi hai detto neanche una volta che eri decisa ad andare e noleggiarli al villaggio. In primo luogo è una cosa che fa dispiacere a me. E poi loro si prenderanno l'incarico, ma non ti porteranno. Io ho dei cavalli e se non vuoi addolorarmi, prendi i miei». Daria Alexandrovna dovette acconsentire e il giorno fissato Levin preparò per la cognata un tiro a quattro e dei cavalli di ricambio, prendendoli fra quelli da lavoro e da sella molto brutti, ma che potevano portare a destinazione Daria Alexandrovna in un giorno. Adesso che i cavalli occorrevano anche per la principessa che partiva e per la levatrice, per Levin la cosa fu difficile. Ma per dovere di ospitalità non poteva lasciare che Daria Alexandrovna noleggiasse dei cavalli mentre si trovava a casa sua. E inoltre sapeva che i 20 rubli che le avevano chiesto per quel viaggio avevano molta importanza per Daria Alexandrovna, le cui faccende finanziarie, che erano sentite dai Levin come loro proprie, non navigavano in buone acque. Dietro consiglio di Levin, Daria Alexandrovna partì prima dell'alba. La strada era buona, la vettura comoda. I cavalli correvano allegramente e a cassetta, oltre al cocchiere, sedeva lo scrivano mandato da Levin per sicurezza in luogo di un domestico. Daria Alexandrovna si assopì e si svegliò soltanto mentre si avvicinavano già alla locanda per il cambio dei cavalli. Dopo aver bevuto il tè da quel ricco contadino proprietario presso il quale si era fermato Levin durante il suo viaggio da Sviaschi e dopo aver chiacchierato con le contadine dei loro figli e con il vecchio del conte Vronsky, che quello lodò assai, alle 10 Daria Alexandrovna proseguì. A casa, per via delle preoccupazioni per i bambini, lei non aveva mai tempo di pensare. In compenso, adesso, in questo viaggio di 4 ore, tutti i pensieri prima trattenuti a un tratto si affollarono nella sua testa e lei ripensò a tutta la sua vita, in tutti i suoi aspetti, come mai aveva fatto prima. I suoi pensieri riuscivano strani anche a lei. Dapprima pensò ai bambini, per i quali si preoccupava comunque, anche se la principessa e soprattutto Kitty, in lei soprattutto sperava, avevano promesso di sorvegliarli. Purché Masha non ricominci a far la monella. E speriamo che Grisha non si faccia male stando intorno ai cavalli e che il pancino di Lily non peggiori. Ma poi i problemi del presente cominciarono a lasciare il posto ai problemi dell'immediato futuro. Cominciò a pensare che per l'inverno prossimo a Mosca bisognava prendere un nuovo alloggio, cambiare la mobilia in salotto e fare una pellicetta alla figlia maggiore. Poi cominciarono ad apparirle i problemi di un futuro più lontano. Come avrebbe fatto una posizione ai figliuoli? Per le bambine non è ancora nulla, pensava, ma i ragazzi? Va bene, ora mi posso occupare di Grisha perché sono libera, ma se mi capitasse un'altra gravidanza? Ah, su Stiva si capisce non c'è da contare. E io gli farò una posizione con l'aiuto di persone buone. Ma se dovessi avere un altro parto? E pensò che la maledizione della donna non consisteva nel generare figli e figlie fra i tormenti, come era stato detto ingiustamente. Partorire non è niente, ma essere incinta, ecco che cos'è una tortura. Pensò, immaginandosi la sua ultima gravidanza e la morte di quell'ultimo bambino. E si ricordò della conversazione avuta con una giovane sposa alla locanda. Alla domanda se avesse bambini, la bella sposa aveva risposto allegramente: «Ho avuto una bambina, ma Dio me ne ha liberata. L'ho sepolta a Quaresima». «T'è spiaciuto molto, vero?» aveva domandato Daria Alexandrovna. «Perché averne dispiacere? Il vecchio di nipoti ne ha già tanti. Sono soltanto guai. Non puoi lavorare né nulla. Non è che una schiavitù». Questa risposta era sembrata ripugnante a Daria Alexandrovna, malgrado l'aspetto bonario della sposina, ma adesso si ricordò senza volerlo di quelle parole. In quelle parole così ciniche c'era anche una parte di verità. Daria Alexandrovna rabbrividì al solo ricordo del dolore ai capezzoli screpolati che provava quasi a ogni bambino. Poi le malattie dei bambini, questa eterna paura, e poi l'educazione, le inclinazioni cattive. Si ricordò del misfatto della piccola Masha fra i lamponi. Gli studi, il latino, tutto questo è così incomprensibile e difficile. E poi i bambini che muoiono. E da capo, nella sua immaginazione, sorse il crudele ricordo, che eternamente opprimeva il suo cuore materno, della morte dell'ultimo bimbo lattante, morto di croup. I suoi funerali, l'indifferenza generale davanti a quella piccola bara rosea e il suo dolore solitario che le spezzava il cuore, davanti alla piccola fronte pallida con le tempie ondulate, davanti alla boccuccia spalancata e stupita, che appariva dalla bara nel momento in cui l'avevano chiusa con un piccolo coperchio rosa con una croce intrecciata. E tutto questo perché? Che cosa uscirà mai da tutto questo? Che io passerò la mia vita senza avere un momento di pace, ora incinta, ora allattante, eternamente arrabbiata, brontolona, tormentata io stessa e tormentatrice degli altri, odiosa a mio marito. E cresceranno dei bambini disgraziati, maleducati e mendichi. Anche adesso, senza questa estate trascorsa dai Levin, non so come avremmo vissuto. Si capisce, Kostya e Kitty sono così delicati che non ce lo fanno sentire, ma questo non può continuare. Anche loro avranno dei bambini, non potranno più aiutarci. Già adesso sono a disagio. Ci aiuterà papà che non si è tenuto per sé quasi nulla. Sicché anche ai figliuoli non potrò fare una posizione da sola, ma forse soltanto con l'aiuto degli altri, con umiliazioni. Bene, supponiamo pure la maggior felicità. I bambini vivranno e in qualche modo io li educherò. Nel migliore dei casi si otterrà soltanto che non siano dei mascalzoni. Ecco tutto quello che posso desiderare. Per tutto questo, quanti tormenti, fatiche, tutta una vita rovinata. Di nuovo ripensò a quello che aveva detto la sposina e di nuovo le fece ribrezzo ricordarsene, ma dovette ammettere che in quelle parole c'era anche una parte di brutale verità. «È ancora lontano, Mikaela?» chiese Daria Alexandrovna allo scrivano per distrarsi dai pensieri che la spaventavano. «Sette verste da questo villaggio, dicono!» Lungo la strada del villaggio il carrozzino discese verso un ponticello. Per il ponte, discorrendo in modo sonoro e allegro, camminava una folla di allegre donne con i covoni legati dietro le spalle. Le donne si fermarono sul ponte, osservando con curiosità la vettura. Tutti i visi rivolti verso di lei sembrarono a Daria Alexandrovna sani, allegri, provocanti nella loro gioia di vivere. «Tutti vivono, tutti godono della vita», continuò lei a pensare, oltrepassando le donne e uscendo su un'altura cullata piacevolmente sulle morbide molle del vecchio carrozzino dal trotto dei cavalli. «E io, come liberata da una prigione, da un mondo che mi uccide con le preoccupazioni, adesso soltanto sono ritornata per un attimo in me. Tutti vivono, queste donne, mia sorella, queste donne, mia sorella Natalie, Varenka e Anna, dalla quale vado. Solo io non vivo. E loro si scagliano contro Anna. Per che cosa? Già, io sono forse meglio. Io almeno ho un marito che amo. Non come lo vorrei amare, ma io lo amo, mentre Anna non amava il suo. Di che cosa è mai colpevole? Vuole vivere. Dio ci ha messo questo nell'anima. Può darsi benissimo che avrei fatto lo stesso anch'io. E non so ancora adesso se ho fatto bene ad ascoltarla in quel momento orribile quando venne da me a Mosca. Allora dovevo abbandonare il marito e cominciare la vita da capo. Avrei potuto amare ed essere amata davvero. E adesso è forse meglio. Io non lo stimo. Lui mi è necessario e io lo sopporto. È forse meglio. Allora potevo ancora piacere. Mi rimaneva la mia bellezza», continuava a pensare Daria Alexandrovna, e le venne voglia di guardarsi nello specchio. Aveva uno specchietto da viaggio nella borsetta e avrebbe voluto prenderlo. Ma dopo aver guardato le schiene del cocchiere e dello scrivano che si dondolavano, sentì che si sarebbe vergognata se uno di loro si fosse voltato, e non tirò fuori lo specchio. Il cocchiere fermò il tiro a quattro e si voltò a destra verso un campo di segale dove dei contadini erano seduti vicino a un carro. Lo scrivano parve voler saltar giù, ma poi cambiò idea e gridò imperiosamente verso un contadino, facendogli segno di avvicinarsi. Il venticello che c'era durante il cammino, quando si fermarono, cessò. I tafani si attaccavano ai cavalli sudati, che se ne liberavano irosamente. Il suono metallico di un martello sulla falce che veniva dal carro tacque. Uno dei contadini si alzò e andò verso il carrozzino. «Beh, risecchito!» gridò arrabbiato lo scrivano verso il contadino che camminava lentamente con i piedi scalzi sull'asciutta strada non battuta. «Vieni su!» Il vecchio ricciuto, con i capelli legati da uno stelo di tiglio, la schiena curva, scura di sudore, affrettato il passo, si avvicinò al carrozzino e afferrò con la mano abbronzata un parafango. «Alla casa dei signori, dal conte?» ripeté. «Ecco, in fondo al viottolo! A sinistra c'è una svolta. Dritto per il vialone e ci vai a finire dentro. Ma voi chi volete, proprio lui?» «E loro sono in casa, Colombella?» disse in modo generico Daria Alexandrovna, non sapendo come domandare di Anna nemmeno a un contadino. «Devono stare a casa», disse il contadino, muovendo lentamente i piedi scalzi e lasciando sulla polvere l'impronta netta del piede con le cinque dita. «Devono stare a casa», ripeté, palesemente desiderando ciarlare. «Anche ieri sono arrivati degli ospiti. Di ospiti ce n'è un fottio!» Il cocchiere si mosse, ma avevano appena svoltato che il contadino si mise a gridare. «Ferma! Ehi, caro, ferma!» gridavano due voci. Il cocchiere si fermò. «Son loro che vengono! Eccoli!» gridò il contadino. «Beh, come vanno bene!» disse indicando i quattro a cavallo e in due in calesse che venivano lungo la strada. Erano Vronsky con un fantino, Veslovsky e Anna a cavallo e la principessa Varvara con Sviansky in calesse. Erano andati a fare una passeggiata e a vedere il funzionamento delle mietitrici meccaniche arrivate da poco. Quando la carrozza si fermò, quelli a cavallo si misero al passo. In testa era Anna a fianco di Veslovsky. Anna cavalcava a passo tranquillo su un basso e tozzo cob inglese con la criniera tagliata e la coda corta. La sua bella testa con i capelli neri che sfuggivano di sotto l'alto cappello, le sue spalle piene, la vita sottile nella mazzone nera e la posizione in sella, sicura e aggraziata, colpirono Dolly. Nel primo momento le sembrò sconveniente che Anna andasse a cavallo. L'immagine di una signora che andava a cavallo si univa nel concetto di Daria Alexandrovna all'immagine di una leggera e giovanile civetteria che, secondo la sua opinione, non si addiceva alla posizione di Anna. Ma quando la esaminò da vicino, si riconciliò subito con il suo andare a cavallo. Nonostante l'eleganza, tutto era così semplice, tranquillo e dignitoso, e nella posa, e nel vestito, e nei movimenti di Anna, che non ci poteva essere nulla di più naturale. Nel momento in cui Anna riconobbe Dolly nella piccola figura che si stringeva in un angolo della vecchia vettura, il suo viso si illuminò improvvisamente d'un sorriso di gioia. Essa gettò un grido, ebbe un sussulto sulla sella e spinse il cavallo al galoppo. Accostatasi al carrozzino, saltò giù senza bisogno di aiuto e, reggendosi la gonna della mazzone, corse incontro a Dolly. Waiting till I see you grow. getting hard to listen. Hard for us to use our eyes. 'Cause all around them gold is glistening. Making sure it keeps us hypnotized. Anna guardava il viso magro, sfinito, con la polvere nelle piccole rughe di Dolly, e avrebbe voluto dire quel che pensava, e precisamente che Dolly era dimagrita. Ma ricordando che lei invece si era fatta più bella e che lo sguardo di Dolly le diceva questo, sospirò e si mise a parlare di sé. «Tu mi guardi e pensi se posso essere felice nella mia situazione. Ebbene, fa vergogna confessarlo, ma io sono imperdonabilmente felice. Mi è successo qualcosa di magico, come un sogno quando si prova terrore, paura e a un tratto ci si sveglia e si sente che tutti quegli spaventi non ci sono più. Io mi sono svegliata. Ho passato momenti tormentosi, terribili, e adesso, ormai da molto tempo, specialmente da quando siamo qui, sono così felice», disse guardando Dolly con un timido sorriso di domanda. «Come sono contenta», sorridendo, disse Dolly, involontariamente in modo più freddo di quanto volesse. «Sono molto contenta per te. Perché non mi scrivevi?» Perché non osavo. Tu dimentichi la mia situazione». «A me? Non osavi? O se tu sapessi come io credo...» Daria Alexandrovna avrebbe voluto dire i suoi pensieri di quella mattina, ma chissà perché le parve fuori posto. «Del resto, di questo parleremo dopo. E che cosa sono tutte queste costruzioni?» domandò desiderando cambiare discorso e indicando i tetti rossi e verdi che si vedevano di là dal verde vivo delle siepi di acacia e di lilla. «Sembrano una piccola città». Ma Anna non le rispose. «No, no, che cosa pensi della mia situazione? Che cosa credi? Che cosa?» domandò. «Io suppongo...» voleva cominciare Daria Alexandrovna, ma in quel momento Vashenka Veslovsky passò galoppando vicino a loro, sussultando pesantemente nella sua giacchetta corta sopra la pelle scamosciata della sella da signora. «Va bene, Anna Arkadievna!» gridò. Anna non lo guardò neppure, ma a Daria Alexandrovna sembrò di nuovo che non fosse opportuno cominciare in carrozza quel lungo discorso e perciò abbreviò il proprio pensiero. «Io non penso nulla, ma ti ho sempre voluto bene. E se si vuole bene, si vuol bene a tutta la persona, così com'è, e non come si vorrebbe che fosse». Allontanando gli occhi dal viso dell'amica e socchiudendoli, era una nuova abitudine che Dolly non conosceva in lei. Anna si fece pensierosa, desiderando capir pienamente il significato di quelle parole. E avendole evidentemente capite, così come voleva, sbirciò Dolly. «Se tu avessi dei peccati, ti sarebbero tutti perdonati per il tuo arrivo e per queste parole», disse. E Dolly vide che le erano venute le lacrime agli occhi. Strinse in silenzio la mano di Anna. «E allora che cosa sono queste costruzioni? Quante sono?» ripeté la domanda dopo un momento di silenzio. «Sono le case degli impiegati, l'allevamento, le scuderie», rispose Anna. «E questo è il parco che incomincia qui. Era tutto abbandonato, ma Alexei ha rinnovato tutto. Lui ama molto questa tenuta e, cosa che da lui non mi sarei mai aspettata, si è fatto prendere compassione dall'azienda. Del resto è una natura così ricca. A qualunque cosa si accinga, fa tutto magnificamente. Non soltanto non si annoia, ma si appassiona. Per quanto ne so, è diventato un eccellente padrone e calcolatore ed è persino avaro nell'azienda, ma solamente nell'azienda. Dove si tratta di decine di migliaia di rubli non calcola. Diceva con quel sorriso gioiosamente arguto con cui sovente le donne parlano delle virtù segrete, aperte soltanto per loro, dell'uomo amato. «Ecco, vedi questa grande costruzione? È il nuovo ospedale. Penso che verrà a costare più di 100.000 rubli. Adesso questo è il suo dada. E sai com'è cominciato? I contadini gli chiesero di cedere a minor prezzo i prati, mi pare, ma lui rifiutò e io gli rimproverai la sua avarizia. Non solo per questa ragione, si capisce, ma per questa insieme a varie altre, lui ha cominciato allora questo ospedale, per far vedere, capisci, che non è avaro. Se vuoi, c'est une petitesse, ma io gli voglio ancora più bene per questo. E ora ecco che vedrai subito la casa. È ancora la casa del nonno e di fuori non è cambiata per nulla». Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @chiocciolarai.it.